fuori, rimanere qua. Quelli vicini come noi, umanamente. Lascia che il vento porti con le sue ali forti l'ultimo dei sogni che farò, che io farò. Yeah, yeah, yeah. In questa c'è chi ancora cerca un respiro un po' più in là, e se chiudono tutte le porte, come uscire la voce lo sa. Tieni accesa la luce stanotte, se qualcuno si è perso si ritroverà. Soltanto tu a farci compagnia, se vuoi c'è ancora gente, quelli vicini con...